tanto d'amarmi giurò, ma quel sogno d'amore solo un'estate durò. La luna ci vide felici coprirci di baci, la luna. La luna dal cielo vedeva e non arrossiva, la luna. La luna guardava e sapeva che un cuore mentiva, la luna. Ma vorrei ritornare come allora è d'amare e sognare con te sotto il chiaro di luna.